c'è una tendenza che colpisce, diciamo, indubbiamente quantitativamente è ridotta, se la vogliamo analizzare precisamente, però colpisce molto perché candidati che si autodefinivano socialisti negli Stati Uniti, che sono come sono stati eletti oggi, come per esempio Alexandria Ocasio-Cortez, non ce n'erano da diversi decenni negli Stati Uniti, dove la parola socialista è sempre stata considerata un tabù, e adesso c'è un'ondata che sicuramente interviene in una debolezza evidente del Partito Democratico, che è evidente anche dal fatto che Trump in qualche modo regge anche in queste elezioni e dalla vittoria che c'è stata appunto 2 anni fa di Donald Trump, ma è una crisi interna al Partito Democratico e in qualche modo riflette anche un'ondata, diciamo, un'onda che da Occupy Wall Street, i movimenti afroamericani, Black Lives Matter e in qualche modo dopo la campagna di Bernie Sanders ha creato, diciamo, una possibilità per alcuni candidati socialisti di essere eletti a queste elezioni. Da questo punto di vista ha avuto un ruolo anche la rivista Jacobin, che ha in qualche modo discusso e portato avanti alcune idee che hanno dialogato con questi fenomeni di movimento che ci sono stati negli Stati Uniti negli ultimi anni. Proprio a questo proposito, infatti, io ti volevo chiedere, ma quindi il Partito Democratico nell'ambito della sua crisi ha capito di doversi rivolgere ai movimenti e di abbandonare l'establishment? Assolutamente no, cioè quello che c'è stato sono state candidature indipendenti, perché parliamo di fondamentalmente o candidati indipendenti o membri dei Democratic Socialists of America, quindi dei DSA, che sono un'organizzazione indipendente dal Partito Democratico e che in molte situazioni non ha nessun rapporto con le elezioni, con le primarie del Partito Democratico. Però in alcune situazioni, nel caso diciamo di Alexandria Ocasio-Cortez, è quello più noto nel seggio appunto del Bronx e del Queens, ha prodotto candidature indipendenti con appoggio di movimenti, di organizzazioni indipendenti nelle primarie del Partito Democratico, sconfiggendo l'establishment del Partito Democratico. Ma come Alexandria Cortez ha detto fin dall'inizio, se non avesse vinto quelle primarie non avrebbe appoggiato il candidato democratico, quindi stiamo parlando di candidature in qualche modo totalmente indipendenti dal Partito Democratico, seppur utilizzano per il sistema elettorale americano quel contenitore per tattica elettorale, insomma. Ed è una situazione conflittuale con l'establishment del Partito Democratico, non lineare, ecco, diciamo così. Tu credi che sia possibile che questa corrente si riveli la carta vincente per le presidenziali? Beh, adesso questo stiamo parlando di pochi candidate donne che sono state elette e che sicuramente sono una novità e producono un fenomeno di discussione. Che siano una carta vincente è tutto da vedere. Sicuramente avrà le sue carte da giocarsi Bernie Sanders, con cui con ogni probabilità anche queste candidature, gli stessi DSA, si alleeranno, appoggeranno probabilmente nella sua candidatura per le presidenziali del 2020 e quindi nelle future primarie del Partito Democratico. Quindi sicuramente giocano una partita, diciamo, nel panorama della sinistra americana. Sono un segnale di novità che possano risolvere i problemi, diciamo, è tutto da vedere.